Radio 24 Reportage. L'Europa del riciclo. Lubiana punta a rifiuti zero entro il 2030. Di Laura Bettini. Non c'è una delle solite capitali del nord in cima alle classifiche europee della gestione virtuosa dei rifiuti. C'è Lubiana, capitale della Slovenia, che tra l'altro è stata anche la prima a porsi l'obiettivo rifiuti zero entro il 2030 in Europa. Obiettivo ambizioso, ma non impossibile per una città che in 12 anni è passata dal fondo alla vetta della classifica delle città riciclone, realizzando anche il più moderno impianto per il trattamento dei rifiuti in Europa. RCERO si chiama, acronimo di Centro Regionale di Gestione dei Rifiuti, che è anche il più grande progetto ambientale del Fondo di Coesione della Slovenia, nonché un grande esempio di cooperazione regionale. Il gestore è la società pubblica Voca Snaga, di cui è portavoce Nina Sankovic. A Ljubljana vivono circa 300.000 abitanti, mentre la popolazione di tutta la Slovenia è di circa 2 milioni. Siamo ovviamente molto più piccoli di altre capitali e forse è anche per questo che siamo riusciti a ottenere questi risultati rapidamente. 12 anni fa Ljubljana riciclava solo il 30% della spazzatura ed eravamo molto indietro rispetto all'Europa. Portavamo quasi tutti i rifiuti nelle discariche. Ora la quota di raccolta differenziata è del 69%. Siamo in cima alla classifica delle capitali europee per raccolta differenziata e in discarica va ormai meno del 5%. Come è iniziato il vostro percorso? All'inizio, nel 2002, abbiamo realizzato delle isole ecologiche per la raccolta di vetro, carta e plastica. Dal 2006, poi, abbiamo cominciato con la raccolta porta a porta dell'organico. Quindi, nel 2013, siamo arrivati al punto di svolta, distribuendo a tutti i bidoni per la raccolta differenziata. Quindi abbiamo ridotto la frequenza di raccolta così che i cittadini fossero ancor più consapevoli dei propri gesti e così sono arrivati i buoni risultati. Tra gli obiettivi della città c'è anche la riduzione di scarti pro capite all'anno, da 145 kg a 60 entro il 2025. Antonio Saccone è un giornalista italiano di Radio Capodistria e vede nel diffuso rispetto della natura il segreto del successo sloveno. Io credo che uno dei fattori di successo di Lubiana relativamente al riciclaggio di rifiuti sia una forte coscienza ecologica che hanno sia gli abitanti di Lubiana che più in generale la Slovenia, nel senso che ci si tiene particolarmente all'ambiente. Una delle cose che salta all'occhio ai tanti turisti che vengono qui, ma anche alle persone che abitano qui e magari si spostano, è quanto la città sia pulita. Ma torniamo alla raccolta dei rifiuti con Nina Sankovic. Ci sono multe per chi non rispetta le regole? Sì, ci sono multe, ma non siamo noi ad averne il controllo. Le sanzioni le comminano i comuni. Pensiamo che un buon servizio sia più efficace delle multe. La buona gestione dei rifiuti ha quattro pilastri. Il primo, naturalmente, è la volontà politica dell'amministratore. Il secondo è un buon servizio, facile e con infrastrutture moderne. Il terzo è la legislazione. Quella di Lubiana è più severa di quella nazionale ed è anche più severa di quella europea. Il quarto è la comunicazione. Noi facciamo molta comunicazione anche su base quotidiana con tutti gli strumenti. È molto importante che i cittadini conoscano e condividano gli obiettivi e affinché li condividano è necessario che sappiano bene le regole. Le parole di Antonio Saccone confermano l'impegno delle autorità. Un ruolo importante in questa costruzione di questa coscienza anche civica, se vogliamo, siano le varie iniziative che vengono sviluppate a partire dalle scuole. A settembre credo ci sia una sorta di giornata nel quale si ripulisce la Slovenia. Ogni anno tutti quanti vanno fuori e cercano di ripulire, e ogni anno i media sottolineano i risultati che vengono centrati in questa giornata. Questa giornata rientra in una serie di campagne educative, campagne di sensibilizzazione con i vari enti. Io seguo prevalentemente gli appuntamenti sportivi. Nei principali appuntamenti sportivi, anche rivolti al pubblico in piazza, c'è sempre uno stand dell'azienda, insomma, che si occupa della gestione dei rifiuti, che è lì a spiegare. Resta però un 30% di rifiuti non differenziati. Che cosa ne è di quelli? We are quite proud. Il 30% della spazzatura che non viene differenziato non finisce in discarica, ma in un impianto che si chiama Ersero a Ljubljana, dove viene setacciato per estrarne tutto ciò che è riciclabile. Il Centro Regionale di Gestione dei Rifiuti di Ljubljana, Arcero, è il più grande progetto di coesione in campo ambientale del paese, come dicevamo. È costituito da una discarica, un impianto di depurazione e impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti. Cofinanziato dal Fondo Europeo di Coesione al 61%, Arcero è anche un valido esempio di cooperazione. Più di 50 comuni sloveni fanno riferimento a lui per il trattamento dei propri rifiuti. Ma quanto costa la spazzatura in Slovenia ai cittadini? E chiediamo a Nina Sankovic. Non c'è una tassa. Il costo medio per abitazione al mese è di meno di 10 euro. Sembra molto, ma in paragone con altre città del nostro paese o anche d'Europa non lo è. Poi noi offriamo un servizio di altissimo livello. I costi sono calcolati su volume, dimensione e frequenza con cui vengono svuotati i bidoni. Noi lavoriamo su 11 comuni in Slovenia. In quello in cui abito io, ad esempio, i bidoni vengono svuotati tutte le settimane. Chi vive in casa isolato in campagna ha tempi di raccolta più sporadici. Queste persone pagano meno rispetto a me. Un po' per predisposizione, un po' per scelta, nel 2016 Ljubljana è stata la capitale verde dell'Europa, la tutela dell'ambiente è richiesta e anteposta in tutte le attività nazionali, sottolinea Antonio Saccone. C'è anche uno slogan che viene utilizzato da tutte le istituzioni slovene, che sembra una banalità, è I feel Slovenia, con love in evidenza, cui segue, diciamo, tre parole che sono green, active, healthy, cioè verde, attiva, sana, e sono le linee guida che guidano, diciamo così, la Slovenia un po' in tutti i settori. Se vai a vedere anche magari i finanziamenti per le start-up, diciamo che molte start-up che si occupano di ecologia, di impatto ambientale e dei settori, diciamo, direttamente collegati, ricevono una serie di supporti proprio per svilupparsi, per crescere, per mettere in campo, diciamo, delle soluzioni che possano migliorare quello che è il rapporto con l'ambiente. Ljubljana è stata anche nel 2016 la capitale verde d'Europa, da lì ha messo in campo anche una serie di altre politiche volte a promuovere, per esempio, la pedonalizzazione del centro, i trasporti elettrici, diciamo, che vanno a surrogare l'assenza delle auto dal centro, quindi che portano gratuitamente le persone da una parte all'altra della zona pedonale, per cui credo che le politiche, diciamo, gli sforzi fatti per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti si inseriscano in un contesto un po' più ampio. E per chiudere sui rifiuti e quindi con l'obiettivo Zero Waste al 2030, torniamo a Nina Sankovic di Voca Snaga. Prima di tutto ci tengo a dire che non ci piacciono termini come rifiuti e spazzatura. Noi abbiamo delle risorse con cui vogliamo muoverci verso un'economia realmente circolare. Stiamo facendo tanti piccoli passi verso questa società circolare. Per esempio, biblioteche, asili, scuole e uffici pubblici stanno impiegando carta igienica prodotta dal riciclo di confezioni di latte e succhi di frutta. Per la pulizia delle strade usiamo acqua piovana o di recupero. Non usiamo più erbicidi nei parchi pubblici. Abbiamo molti progetti che portano l'economia circolare nella nostra vita e incoraggiamo i cittadini a ridurre consumi e sprechi. Li incentiviamo alla condivisione e al riuso. And maybe follow the sharing economy principles. Piccoli gesti per un futuro migliore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.